La vita sessuale degli elefanti non è più quella di una volta. Tempo fa un reportage di Michael Schmidt sulle scienze, un reportage dalle foreste del Myanmar, ovvero da quella che fino a qualche anno prima, se non vado errato, era la Birmania, spiegava minutamente la tecnica per l'inseminazione artificiale delle elefantesse dopo aver convinto con le buone i maschi a deporre il loro sperma in una vagina artificiale di dimensioni appropriate. Nel Myanmar gli elefanti sono al lavoro dalle 4 del mattino e dopo aver trascinato e spostato tronchi per tutto il santo giorno ricevono un piatto di riso bollito e salato. Va da sé che nella breve pausa notturna loro concessa non assaltino più le femmine con la cupidigia di un tempo. Se tramite un tubo di 1,5 metri di lunghezza guidato da un visore a fibre ottiche, ahimè, non avesse fatto ricorso all'inseminazione artificiale, dunque il capitale perderebbe ben presto la sua forza lavoro. Elefantini modello Dumbo non ne nascerebbero più. Tutto ciò nonostante quanto ci dica l'attualità scientifica in ordine alla segnaletica sessuale delle elefantesse, perché nella prossima arsi dell'ovulazione, infatti, le elefantesse, come molte altre specie viventi, secernono feromone che, ben miscelato alle urine, costituirebbe un potente richiamo per i maschi. Di fronte allo stress e dal sudore della fronte, evidentemente il feromone non basta più. La vicenda mi ricorda il 5-alfa-androsterone del biochimico inglese Clark. Gli ascoltatori di lunga data, i più affezionati, ricorderanno che nel gennaio di 5 anni or sono mi permisi alcune critiche a questo Clark. Questo biochimico è quello che aveva spruzzato di un liquido inodore ricavato da testicoli maschili alcune poltrone vuote di un teatro e che al libero accesso della gente aveva constatato che queste poltrone, diciamo così dal valore aggiunto, erano state occupate tutte da gentili signore. Avevo fatto notare che la cosa era ben lungi dal rispettare i canoni della scientificità pretesa. In tempi di predominio del culturale, d'altronde, è facile denigrare, no? Chi si affida alla natura. Al mondo, come noto, ogni tanto si scopre qualcosa di buono e non se ne sente più parlare, mentre da altro di cui tutti continuerebbero volentieri a fare a meno, improvvisamente ci troviamo sommersi. E deve essere questo il caso del 5-alfa-androsterone di Clark. Dall'America ogni tanto giungevano voci su profumi galeotti in libera vendita a caro prezzo. E oggi l'erede latino della pozione è finalmente nelle italiche profumerie, probabilmente già nella tasca interna di molte giacche e giubbottini. Nei giorni scorsi un riquadrino insistente in fondo alle pagine dei quotidiani mostrava la fotografia di 4 bottiglini. In vendita è qualcosa che viene chiamato psiche control e la propaganda ne parla come del risultato dell'aromacologia, ovvero di quella scienza secondo loro che studia la capacità di determinate fragranze di influenzare gli stati d'animo dell'uomo, le sue emozioni, la sua psiche. I bottiglini sono 4 perché 4 sono le specialità. C'è la fragranza sensualité, il francese è sempre d'obbligo in questi casi, quella relax, quella énergie e infine la fragranza bonheur, assecondando così possibilmente di minuto in minuto e di passo in passo, tutti i gradi dello spirito dall'incontro al letto. Così come nell'ingresso del campo di concentramento stava scritto «Il lavoro rende liberi», così l'essenza per il controllo della psiche libera l'anima, così recita infatti lo slogan. Ci sono giustificazioni di sé che per la loro leggerezza nell'autocontraddirsi non inducono neppur più alla reazione rabbiosa, fanno pena e fanno paura. I preamboli dello stupro allora si convengono dal profumiere, fra le briciole di un controllo sociale che ormai non lascia più scampo a nessuno. E tutto ciò per il merito apparentemente contraddittorio di un animale che è riuscito perfino a sedare le erezioni degli elefanti.